Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle. Questa mattina non è che vogliamo seminare speranze, dato che le notizie sulla crisi economica sono così prive di barlumi, di minima luce all'orizzonte. Ma vogliamo registrare un dato che secondo noi ci sembra interessante. Nei momenti della crisi, naturalmente ognuno di noi nel proprio privato o anche come attività collettiva pensa quale potrebbero essere le uscite individuali per sé, per la propria famiglia, cerca di agglomerare e accreditare nel suo disagio che ormai è contaminato e diffuso fra tutti, individuale, degli escamotage, dei sistemi, cerca di lavorare sulle economie, cerca di lavorare nel reperimento di nuove risorse, cerca di immaginare, di studiare, di pensare, insomma non ci dorme la notte. Beh, una invece delle attività che sembra più collettivamente percorse per alleviare o perlomeno aggiungere dei motivi di speranza di fronte a un futuro che sembra di catastrofe economica è quello del gioco. Vi faccio un esempio vicino al nostro paese, di una nazione che ci assomiglia molto per spirito, per modo di porsi di fronte alle vicende dell'esistenza. In Spagna stanno aspettando con grande apprensione quella che è la più importante grossa lotteria del mondo, è il gordo. Il gordo significa il grasso. Beh, il grassone gli spagnoli immaginano che possa aiutare almeno qualcuno di loro a uscire da una situazione dal punto di vista dell'occupazione, della crisi economica, è anche molto più percepibile che nel nostro paese. L'appuntamento più atteso dei prossimi giorni per gli spagnoli non è il Natale. Tutti sono concentrati sul 22 dicembre, quando verranno estratti i numeri del Gordo, la tradizionale lotteria di fine anno, prima edizione nel 1763, che sta facendo letteralmente impazzire gli iberici. Code infinite davanti ai rivenditori di biglietti, specie a quelli storici come Doña Manolita di Madrid, che nelle passate edizioni ha regalato molte serie di numeri vincenti. È proprio questo il bello di El Gordo. Non è una tradizionale lotteria con un solo biglietto vincente, ma un enorme sistema in cui i giocatori comprano decimi di quote. Migliaia di vincitori si spartiranno l'impressionante montepremi che sfiora i 2 miliardi di euro. Saranno dunque milioni i numeri vincenti, magari solo per pochi euro, ma comunque sufficienti a rientrare dell'investimento. 800240024. Quanto ci avete pensato anche voi? Quanto anche voi come gli spagnoli affidate alla speranza nel gioco di poter perlomeno fornirvi una riserva di autonomia, una riserva di sicurezza, di tranquillità che vi permetta di affrontare la crisi in maniera più serena. Voi, i più dotati di spirito razionale tra di voi, mi diranno: ma cosa ci stai dicendo? Soltanto una piccola minoranza di persone che credono ancora nella fortuna, di scioperati, di compulsivi giocatori, pensano a questo. La maggior parte degli italiani pensa a soluzioni più razionali, più concrete, o si lascia prendere dallo sconcerto. Beh, le cose non stanno esattamente così. L'Italia è sempre più un popolo di giocatori. Nonostante la crisi, il settore non conosce contrazione. La fotografia inequivocabile, scattata dall'Agicos, agenzia giornalistica a concorsi e scommesse, mostra come il 2011 sia stato un anno da record. Il comparto ha raccolto oltre 76 miliardi di euro, con un incremento rispetto allo scorso anno del 23,9%. Volendo fare una media, ogni italiano, per dare la caccia alla dea bendata tra scommesse, concorsi e giochi online, ha speso oltre 1.000 euro. La febbre del gioco corre sul filo di internet. Le cifre del gaming online parlano chiare. New slot, videolottery, poker cash e torneo, casino games e skill games insieme mettono a segno la crescita maggiore, più 169,9% rispetto al 2010. Perdono terreno i tradizionali bingo, giochi sportivi e ippici. Il gratta e vinci spopola al sud, Bari e Trapani in testa. Sul podio delle province più scommettitrici si piazza Pavia, con una cifra da capogiro, 3.000 euro investiti a testa per sfidare la fortuna, oltre il doppio della media nazionale. E altra novità. Quindi ancora non voglio avallare le tesi che ci sia un bene essere sepolto, nascosto e sommerso nel nostro paese, ma quattro soldini da giocare sulla dabbendata pare che gli italiani li stiano trovando, o ce li abbiano, o perlomeno giudichino che nella gestione frammentata di un budget familiare la cifra da investire nella fortuna comunque è una cifra ben spesa, almeno questo farebbero pensare i dati, nei quali entreremo più nello specifico. Ma voi come la pensate? Noi spesso, quasi ogni anno, facciamo sotto le feste natalizie una trasmissione dedicata al gioco, visto che tradizionalmente è il periodo in cui si gioca di più, in cui le famiglie si accapigliano e si accoltellano di fronte al tavolo della tombola, al tavolo del mercante in fiera, e io che conosco bene la provincia italiana, anche nei tavoli da gioco che improvvisamente si apparecchiano nelle più rispettabili famiglie, nei luoghi frequentati dai più stimati professionisti, dove in realtà le carte del gioco improvvisamente trasformano le persone in un altro tipo di qualità umana. 800 24 0024, state giocando, state pensando di giocare, state investendo anche voi nel gioco la speranza di avere comunque delle risorse a disposizione impreviste, imprevedibili, o perlomeno come ne pensate, cosa ne pensate del gioco? 800 24 0024. Gioco spesso perché lavoro qui di fronte, siamo amici, allora vengo sempre a giocare. Cosa farebbe con 155 milioni di euro? Ci farei, ma io non ci credo che ci sia stata vincita, comunque non ci penso. Aprirei una casa famiglia per i bambini orfani, una città tutta per loro. Vabbè, se vingo, non lo so, ma non lo so. Andrebbe a casa, sicuramente andrebbe in paese mio e basta. Smetterebbe di lavorare? Sì, questo sì, a 155 milioni, chi lavora? Non lavora nessuno. Eh sì, certo, anch'io mi occuperei della fame nel mondo, farei degli investimenti per evitare ci siano delle guerre, vorrei aiutare le persone che hanno bisogno, vorrei vedere un sorriso in chi non ce l'ha. Tutti diciamo così, tutti immaginiamo così, ma nessuno dentro noi ci crede veramente. Se avessimo questa vagonata, queste carriole di soldi insospettabilmente ottenuti semplicemente, non so, facendo un grattevinci o comprando un biglietto di lotteria, una delle tante maniere che oggi ci sono per vincere soldi al gioco, beh, boh, ci penseremo subito ad esaudire le nostre più inconfessabili speranze di felicità che mai nella vita abbiamo avuto modo di soddisfare. Fabio Felici, buongiorno. Buongiorno. Fabio Felici è stato spesso nostro ospite, direttore dell'agenzia Agecos, da cui abbiamo preso questi dati, specializzata in lotterie e giochi. Dal tuo osservatorio, Fabio, ti risulta che l'affrontare della crisi abbia corrisposto in Italia anche a un incremento nel gioco? Ma no, questo è un errore che si fa spesso, accostare crisi e gioco come se fossero due strade destinate ad incrociarsi sempre. Ormai sono più di 10 anni che il gioco cresce ogni anno, questo anche grazie all'aumentare dell'offerta, perché prima tanti soldi che sembrano vengano giocati in più dagli italiani, ma non è così, venivano giocati semplicemente all'estero perché in Italia non c'erano certi giochi. Mi riferisco ad esempio 3 anni fa non si poteva giocare a poker in Italia, ma non è che gli italiani non giocassero a poker, lo facevano semplicemente su siti esteri illegali. La stessa cosa con i casinò online, cioè la roulette, i dati, il baccarat, che sono online ormai dal 18 luglio scorso. Prima gli italiani li giocavano all'estero, quindi si parla sì di aumento, ma più che di soldi nuovi tirati fuori dalle tasche sono soldi tornati in Italia, quindi gli italiani stanno riportando nel nostro paese, quindi ovviamente con grande soddisfazione dell'erario, soldi che venivano puntati fuori. Quindi non si tratta di capitali scudati, ma di soldi che venivano investiti in giochi che si potevano fare soltanto all'estero, adesso si gioca in Italia, come detto appunto il poker. Esatto, non si poteva fare, però tanti italiani magari non lo sanno neanche, perché hanno, non so, hanno la passione per la roulette, senza andare nei costosi casinò a fare lunghi viaggi per passare 2 giorni a San Menzano, a Sanremo o a Campione, giocavano alla roulette online, molto più semplice, con le ragazze che girano la pallina, ma lo facevano su siti esteri che non si poteva fare. Magari una grossa vincita forse non sarebbe stata neanche pagata, perché magari tanti siti esteri non sono neanche così controllati. Adesso si può fare anche in Italia con tranquillità, e questo ha contribuito a far ritornare molti soldi. Tra l'altro quest'anno abbiamo sentito il servizio prima, 76 miliardi di euro, però ricordiamo che non è che abbiamo tirato fuori dalle nostre tasche 76 miliardi di euro, 55 ci sono tornati in vincite, quindi di fatto la cifra che veramente gli italiani spendono sarà intorno ai 20 miliardi miliardi di euro, una cifra importante, però alla fine qualcuno che rientra, qualcuno che può le tasche, il portafoglio pieno, c'è. Quindi incide anche nel nostro PIL in parte questo grosso flusso di denaro. Siamo sul 4% del PIL, il gioco. Qualcuno storcerà la bocca, dirà oddio, il 4% del prodotto interno lordo di arrivata dai giochi, ma voglio dire, in tanti paesi anche all'avanguardia, mi riferisco ad esempio all'Inghilterra o alla Francia, che ci ha copiato completamente il sistema gioco, iniziano ad avere impatti importanti sul PIL di questi paesi il gioco. Sentiamo Giorgio, un primo ascoltatore. 800240024, ricordo che questa mattina siamo aperti ai vostri pareri, vorremmo sapere cosa pensate di quello che stiamo esponendo come dato, ma anche il vostro personale convincimento, se siete dei giocatori, quanto investite, la vostra emotività, delle vostre risorse nel gioco, state investendo più o meno di quello che investivate semplicemente un anno fa, o esattamente come dice Giorgio, qual è il vostro punto di vista etico rispetto al gioco. Giorgio, eccomi qua, buongiorno innanzitutto. Sì, pronto, ciao. Eccomi. No, il mio pensiero è probabilmente contraddittorio a quello che ho appena sentito, nel senso che io invece sono molto convinto che il gioco è legato a uno stato di malessere generale, tant'è vero che forse nel nostro paese i punti dove si giocava di più sono sempre stati legati al mezzogiorno o nei paesi, voglio dire, nelle situazioni meno ambienti, no? In questa situazione dove veramente a livello economico e mai come in questo periodo ho visto la gente che si interessa, compra giornali, ascolta tutti i notiziari, c'è una paura e uno stato d'animo veramente terribile in questo momento. Io mi domando e dico, e forse non vorrei uscire dal seminato, però è una cosa che ci tenevo a chiedere, ma i signori parlamentari dove vivono? Conoscono i loro vicini di casa? Chi sono? Conoscono veramente la gente che vive con 600 euro al mese? Sì, ma... e mi vengono a dire, chiedo scusa, poi Prego, a tenermi sul tema io. Una cosa, non ho mai ascoltato Radio 24, ho cominciato da 2 mesi a questa parte e sono sempre sintonizzato su Radio 24. Questo mi fa piacere. Perché no, ma fa piacere anche a me da una parte, e da un'altra parte mi preoccupa per il fatto che il dovere stare con l'ansia attenti a tutti questi cambiamenti che comunque ci porteremo avanti nel tempo, ecco che il gioco rientra anche in questo stato d'animo, in questa tensione, in questa illusione, in questa parvenza di modo di poter avere un futuro un po' più tranquillo e un po' più sereno. In realtà il problema è molto, molto, molto più grave di quello che noi in questo momento non riusciamo a valutare. Sì, ecco, se lei ci ascolta comunque da 2 mesi, ma con attenzione, questo ci fa piacere, in fondo dovrebbe confortarla dal fatto che esista comunque una radio con una particolare attitudine, attenzione, strumenti concreti per gestire l'informazione riguardo a questo problema. Lei dovrebbe anche sapere che cerchiamo di tenerci su questo particolare argomento, se no finiamo per generalizzare. Lei ha detto che secondo lei esiste una incidenza di persone che giocano nei paesi del meridione d'Italia, in particolare situazioni di disagio sociale. Sentiamo Fabio Felici, che è direttore dell'agenzia Agicos, che è specializzato, ha i dati in mano, se questa intuizione, questa impressione dell'ascoltatore corrisponde alla realtà. Ma sai, non è la mia opinione. No, vediamo i dati. Sono i dati. Esatto, quindi sono già... i dati parlano che per esempio la provincia italiana, l'abbiamo sentito anche prima nel servizio, dove si gioca di più è Pavia, quindi Pavia. Non è il sud. Al secondo posto troviamo Como, Teramo, Rimini, Savona, Latina, Reggio Emilia, dove c'è un grosso impatto rispetto alla popolazione del gioco. Insomma, non è Napoli come pensavano gli ascoltatori. No, Napoli vanno forte le scommesse, va forte qualche i gratta e vinci, vanno molto forte in Puglia, come abbiamo sentito. Quindi è il fatto di dire che il sud è penalizzato o quantomeno si gettano sul gioco per cercare di risolvere i problemi è sbagliato, perché allora anche a Pavia, dovrebbe essere anche a Teramo, a Terni, in altri piccoli centri. E io poi ripeto, 5, 6, 7 anni fa questa crisi non c'era e il gioco cresceva allo stesso modo, quindi non c'è differenza, sono due strade parallele ma che non si incrociano. Quando è stata la vera svolta in Italia, quando c'è stato il boom del gioco? 2004, perché a settembre dell'anno prima, nel 2003, il gioco passò nelle mani dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, quindi oltre ai tabacchi prese la gestione del gioco. Quindi l'anno successivo, il 2004, fu l'anno boom e da lì è stato un crescendo continuo, crisi o non crisi. Non c'è stata mai una flessione. Mai una flessione, quindi questo dimostra che non si può paragonare, non si possono mettere insieme crisi e gioco, sono due strade che vanno parallele. La nostra è una passione che abbiamo dentro, ci piace giocare. Qualcosa che va male, cioè, diciamo la verità, è la tradizionale lotteria di Capodanno, la cosa più stentia. Non esiste più. Stanno cercando di rilanciare il Festival di Sanremo su Facebook, mi sembra un'altra di quelle cose che danno un po' l'ultimo guizzo del cadavere. In realtà la lotteria legata al programma televisivo funzionava quando la televisione generalista era centrale. O c'erano i grandi conduttori come Bonolis, fece l'ultima grande la Carrà, Bonolis, hanno funzionato. Tutti gli altri, con tutto il bene che vogliamo alla buona Antonella Clerici, la Lotteria Italia sta sprofondando, sta purtroppo facendo la fine che ha fatto il Totocalcio, sta facendo la fine che sta facendo purtroppo l'Ippica Italiana. La lotteria, tre anni fa avevamo quattro lotterie in Italia, c'era quella legata al Carnevale di Venezia, legata ad altri avvenimenti. Oggi abbiamo una tradizionale Lotteria Italia, ed è un peccato pensare che noi la prima lotteria risale al 33, fu la prima Lotteria Italia si giocò a Tripoli, perché Tripoli all'epoca era italiana, in Libia, la lotteria, e fu legata alla gara di automobilismo dove che vinse una Bugatti, adesso neanche ricordo il nome del vincitore, e quindi dall'idea di come sia una lotteria storica nel nostro paese. Purtroppo è stata lasciata andare, abbinamenti sbagliati, solo come dicevi giustamente, De Bonolis e la Carrà, ma forti del loro appeal, sono riusciti a dargli un po' di vitalità. Così, perché è cambiato anche il giocatore. La lotteria ormai è un pubblico che va pari passo con il pubblico della TV generalista, un pubblico che dal punto di vista grafico è in via di estinzione per motivi di età. Assolutamente, ma la Lotteria Italia paga il fatto di avere un appuntamento solo annuale. Alla gente non piace giocare e aspettare 5 mesi per sapere se il biglietto è vincente. E qua, infatti, la grande vendita dei biglietti della lotteria si è agli ultimi giorni, perché ora compro un gratta e vinci, so in un minuto se cambio vita o no, faccio una scommessa, so immediatamente se ho vinto o no, con la slot, mi gioco la slot, magari vinco 500.000 euro e cambio vita. Aspettare 2-3 mesi con un biglietto in mano e magari uno se lo dimentica anche in una tasca, come è successo due anni fa, che il primo premio non è stato riscosso, sarà stato dentro qualche lavatrice, si sarà mangiucchiato un biglietto da 5 milioni di euro. No, non è più nei tempi. Francesca, buongiorno. Ecco, abbiamo la prima vedova bianca, buongiorno, del gioco. Eccola. Niente, io volevo dare la mia testimonianza. Io ho un compagno che è un giocatore compulsivo. Ho scoperto un mondo nuovo per quanto riguarda il gioco. Ho scoperto che il giocatore compulsivo è una malattia che può arrivare, mi hanno detto, da un momento all'altro, a qualsiasi età. A cosa gioca suo marito? E non è mio marito, è il mio compagno. Beh, suo compagno. Gioca con delle macchinette che oramai si trovano dappertutto. Slot machine, dappertutto, nei grandi ipermercati, nel piccolo bar. E lui oggi ha 51 anni e probabilmente avrà in tasca 2 euro. Ha giocato tutto settimana scorsa. Quante delle sue risorse vanno bruciate nella slot machine? Ha buttato tantissime risorse. Ma occhio e croce. Guardi, io sono con lui da 2 anni, forse... Ma lui ha uno stipendio, ha un lavoro? Sì. Aveva un lavoro, perché settimana scorsa si è giocato anche il lavoro. E per cui non... Come fa a giocare il lavoro? Scusi, una scommessa? Come ha fatto a giocarsi il lavoro? Il datore di lavoro si è stancato di lui, No, perché il passo successivo poi giocarsi lei, non gli rimane più niente. Non ha più niente. No, dico, l'ultima cosa a giocarsi rimarrà la sua compagna, perché se si è giocata... Sì, in effetti si è giocata anche la sua compagna settimana scorsa. E siccome io non sapevo che questa è una malattia, non è un vizio... Sì, ma lei qualche sentore in 2 anni che tutti questi soldi... Certo, sì, in effetti ci siamo lasciati, ci siamo ripresi, è stato seguito da uno psicologo. Beh, adesso ha finito i soldi, non ha più niente da giocarsi. Non ha più niente da giocare, adesso sta frequentando questo centro di recupero del GAM, sì. Ce ne sono pochi in giro e purtroppo c'è poca pubblicità. Mi piacerebbe che, insomma, ci fosse più... Va bene, lei ha dato la sua testimonianza, così abbiamo affrontato subito un problema che apro e chiudo qua, perché parlare di patologia di gioco è un altro tema, è un tema da Nicoletta Carbone. Stiamo parlando di esempi, no, perché è la collega e poi si occupa di tutto ciò che riguarda la salute, il benessere e l'equilibrio. È chiaro che nel gioco esistono aspetti patologici, noi non stiamo toccando quelli, stiamo toccando persone che nella piena e libertà di gestione del proprio budget individuale parte ne destinano a, come che preferisce andare al cinema, chi lo investe in libri, chi lo investe in gelati da passeggio, chi lo investe in escort, ognuno lo investe nei piaceri che meglio crede, questo è lecito farlo. In questo caso tu cosa devi dire, Fabio Felici? Concludiamo questo discorso, sì, lo tocchiamo subito. Questa, sai, è una questione, non vorrei sembrare cinico, però è una questione quasi numerica, in questo senso 30 milioni gli italiani che giocano, c'è un italiano su due. È stato calcolato che l'1% può avere problemi di compulsività, cioè problemi di usura, di esagerazione con il gioco. Esistono istituti, cioè al Gemelli c'è proprio una sezione che si occupa delle compulsività, che tra le altre compulsività c'è anche quella da sesso, da shopping, da internet, quindi ci sono varie compulsività, da alcol soprattutto. C'è un centro a Campoformo da Udine, c'è il telefono SOS Gioco, è un numero verde che si può consultare per prevenire o segnalare questi casi, per avere aiuti. Quindi le società sono molto attente, tra l'altro, perché ricordiamoci che un giocatore che si rovina è un giocatore comunque perso, quindi un giocatore che esce dal circuito, e questo non lo dico per cinismo, lo dico che nessuno ha interesse né morale né materiale perché un giocatore si rovini. Solo una battuta, Fabio, poi diamo la linea alle informazioni della borsa, perché so che ogni volta si parla di gioco c'è subito la levata di scudi, quasi che noi parlassimo di istigazione a un'attività delinquenziale. Quanto la legalizzazione di alcuni giochi, nel caso delle slot machine, in realtà ha permesso di tenere sotto controllo il fenomeno della compulsività? Ma assolutamente tantissimo intervento. Ricordiamoci che fino al 2005, ad esempio, le macchinette di cui parlava la signora, è roba in mano alla camorra, tutto in mano camorra e mafia, sono state recuperate dallo Stato, e quindi c'è un minimo di controllo, c'è tanto controllo su questo, e quindi si possono anche prevenire con fenomeni compulsivi, perché l'esercente stesso può denunciare questa situazione ai familiari, può intervenire. Ci vuole vero più cultura, più intervento, ma se ne fa già abbastanza. Melog 2.0. A me piace, gioco, tra virgolette, è diventata parte di me, anche quando si perde. Ci si parte, si cambiano i soldi, si prendono le fiche, si toccano le carte, si parte col gioco, e man mano c'è una gradualità di piacere che cresce anche nella sconfitta, man mano che si continua. 800240024, stiamo facendo come facciamo quasi ogni anno alla fine, appunto, della stagione, nel momento in cui le feste, il grande ponte natalizio e capodannesco dà più possibilità di giocare, facciamo un'analisi del paese che gioca. Lo facciamo, lo ripeto se ci fosse mai necessario, ma chi mi ascolta mi conosce abbastanza, in totale spirito laico. Vedo che stanno avendo tantissime telefonate, lo Stato non può favorire il gioco, è un'attività che porta alla dissoluzione. Ci sono tante attività che portano a dissoluzione, io sono convinto che non si può fare un giudizio di merito. Il gioco fino a un certo anno era totale appannaggio di almeno alcuni giochi, di organizzazioni malavitose che ne traevano il loro profitto. Lo Stato a un certo punto ha deciso che certi giochi andavano in qualche maniera controllati, e ha iniziato a controllarli. Che poi la gente giochi per divertirsi, la gente giochi per alimentare proprie speranze, o la gente giochi per pura compulsività, e abbiamo già detto che per questi ci sono luoghi specializzati come ogni altra malattia compulsiva che possono aiutarli, è un altro tipo di discorso. Non entro in merito sia bene, male, si faccia bene all'anima o eticamente sia giusto giocare. È un'attività che gli italiani fanno in totale trasparenza, in totale rispetto della legge, e noi di questo parliamo questa mattina. Lo facciamo con Fabio Felici, che è di direttore dell'agenzia Agicos, specializzata in lotterie e giochi. Però prima di riprendere i dati, che quelli che vogliamo analizzare ci interessano di più, sentiamo Antonio. Antonio, buongiorno. Buongiorno a lei. Io sono stato per 30 anni un giocatore di casinò, di poker. Il gioco è un'emozione, il gioco è un piacere, non è l'ultima speranza che esce dal vaso di Pandora. E poi spesso non sono le decisioni che prendiamo noi, è il piacere di farlo. Cioè, Antonio, lo dico subito, così sfato un altro mito. Io sono una schiappa anche a giocare a scopa e a briscola, insomma, sempre è stato negato. No, io sto analizzando un problema da totale profano, anzi da inetto del gioco. No, quindi... lei è un uomo di cultura che io stimo molto, il giocatore di Dostoevskij, non è vero, però è molto bello averlo letto. Sì, già. Il gioco non è un fatto di piacere, di poter svoltare nella vita. Ma di è chiaro che da gusto, Antonio, se no la gente non giocherebbe, non voglio negare che ci sia un piacere. Infatti, molte volte l'atteggiamento della levata di scudi a priori è di tutti coloro che considerano il piacere, la ricerca del piacere come un'attività sempre da censurare. No, la ricerca del piacere è un'attività da incrementare. Tutti vorrebbero giocare perché c'è il piacere dell'emozione, del piacere, e tutti vorrebbero vincere. Chi ne fa il moralista non ha mai giocato perché ne ha un pensiero negativo. Come per il sesso, tutti quelli che dicono che cosa orrenda, schifosa. Vada in qualche casino e vede che grande varietà di animali, quello che si fa per salire. Come anche in qualche casino, la stessa cosa. Bravo. Lei perché ha smesso? Perché ha smesso a un certo punto? Perché io, non la presunzione, mi annoiava il gioco. Io avevo 20 anni, negli anni 70, Monte Carlo, insomma, giocavo con pochi soldi di amici che ne avevano tanti, poi il gioco incominciava ad annoiarmi, mi dava fastidio sedere al tavolo di poker, c'erano tanti pubblici. Come quelli che smettono di fumare da un giorno all'altro, che gli dà fastidio. No, è lo stesso, io sono un fumatore di sigari antico toscani, di extravecchi, poi per un mese non fumo perché non ho voglia di farlo, non mi piace più. Io l'ho fumato per 18 anni il toscano, poi un giorno mi sono alzato, ho avuto un conato di vomito, ho smesso, così non so perché. Ma è bellissimo, ma non lo rimpiango. Il toscano, il sapore del legno, qualche volta... Non soltanto del legno. Lorenzo... Buongiorno, ascolti, io volevo... Solo chi fuma il toscano capisce che quest'ultima è battuta. Lorenzo. Sì, stavate parlando prima, no, che ci sono tanti italiani che giocano. Io comunque le dico una cosa, noi siamo una quarantina in una ditta, no? Ogni mese siamo in 30, mettiamo 10 euro a testa, giochiamo Grattavinci o quello che è, insomma. Ma in tante parti fanno così, non è che gli italiani giocano tanti, sono tanti che si mettono insieme e fanno le società ormai. Poi un'altra cosa le volevo dire. Io sono anch'io, sono un ex giocatore delle macchinette, fortunatamente me ne sono uscito, però io le dico una cosa e sono convinto, quelle macchinette lì hanno qualcosa, dei messaggi subliminali, non so che cosa, che ti tengono lì. Io sono riuscito a togliermi. Ma lei pensa sono le luci, i colori, le immagini? Sono convinto che c'è qualcosa. No, sì, guardi, Fabio Felice. Mi scusi, mi intrometto, ma c'è proprio uno studio su questo, è il gesto che porta alla compulsività, perché è difficile pensare che grattare un gratta e vinci possa portare a quella compulsività, è il gesto di tirare giù quella leva, che o tirarla ogni 7-10 secondi, questo è stato calcolato, che porta ad essere compulsivi, e chi non ha la forza per fermarsi, quella leva continua a essere tirata io per ore e ore. Io parlo anche dei poker, eccetera, video poker, quelle cose lì. Sì, ma è proprio perché il fatto che c'è una manualità che non c'è negli altri giochi, cioè una volta compilata una schedina è fatta, una volta fatta una scommessa è il fatto di avere sempre questo gesto, questa la mano che tocca la macchina della fortuna, la mano che lo tocca, e questi non sono io a dirlo, ma sono stati studi che infatti, sono fatti da professori. Io sono convinto che c'è qualcosa che ti tiene, sono convinto che c'è qualcosa. Guardi, che se lei la macchinetta la controllasse con la voce, probabilmente questa compulsività non ci sarebbe. Non lo so, perché quando noi facciamo il grattavinci o facciamo la schedina, non è che ogni giorno siamo là, lo fai una volta sì, una quindi volta lei pensa no. Che ci sia una sorta di raggio verde che parte dalla macchinetta? Sicuramente. Vabbè, se qualcuno ha elementi, se qualcuno di voi sa che esista una tecnologia ipnotica nelle macchinette del videopoker oppure delle slot machine, che in qualche maniera lanci messaggi subliminali, ipnotizzi in maniera suadente con luci, colori ed effetti vari, riesca a tenere le persone incollate, ce lo faccia sapere, siamo molto curiosi. Giorgio. Sono. Eccomi. Buongiorno a lei, dottore. No, niente, io come dicevo al suo collega, faccio questo, cioè sono un giocatore semiprofessionista, un professionista che Dio si voglia in Texas Hold'em. Quindi faccio tornei a livello internazionale di poker. È come uno sport, diciamo, a questo punto. Diciamo che il poker è stato sdoganato come sport a tutti gli effetti, per cui serve studio, serve allenamento, serve quello che serve in tutti gli sport. Se lo si fa nei termini consentiti, quindi pagando un buy-in adeguato, perché il segreto del gioco dopo alla fine è solo quello di giocare in bankroll, che tecnicamente vuol dire giocare secondo le proprie possibilità, se lo si fa a quel livello là, adesso con l'evento del poker online, tra parentesi, alcuni giovani hanno fatto del gioco una professione. Ma io ho visto che poi anche voi giocatori di Texas Hold'em Avete anche tutta una sorta di liturgia negli occhiali, i cappellini, le magliette, il modo di porsi, ci sono gli eroi. Allora, diciamo che quello è stato un po' importato dall'America, dalle trasmissioni televisive che, come di ogni sport o di ogni attività, fanno un mito. E in realtà dopo il mondo del poker è il più variegato, c'è uno spaccato della società normale, il mondo del poker. C'è il, mi passi il termine, il fallito che vede nel gioco l'unica possibilità di rinascita, c'è il professionista che gioca esclusivamente per divertimento, per passione, come sentivo prima alcuni interventi precedenti, c'è chi lo fa di professione per guadagnare soldi, perché è un mestiere, un lavoro che permette di guadagnare molto bene, però c'è un'economia sommersa in tutto questo. Lo Stato infatti sta lucrando molto sul gioco, e se lo permettessero in tutte le città, perché adesso ci sono lucrando, lo Stato ne fa una delle sue attività che portano risorse in realtà pubbliche, quindi piuttosto che lo faccia un capo camorrista, preferisco che lo faccia lo Stato. No, lo dovrebbe fare lo Stato, ma dovrebbe addirittura allargarlo, dando la possibilità in ogni singola città, perché è inutile nascondere le cose. Cioè, uno di Napoli non viene a Venezia o a Campione d'Italia o a Sanremo a giocare al casinò, va nella bisca della città dov'è. Questo è un dato di fatto, quindi è un po' come la prostituzione, no? Parlare di prostituzione dicendo lasciamo le case chiuse è una cosa brutta, parlare. Non bisogna occuparsi, ma le strade sono piene. Fabio, spieghiamo meglio, diamo corpo a quello che dice il nostro ascoltatore. Sì, allora, innanzitutto, ecco, il poker permette appunto di farne una professione, perché è uno dei pochi giochi dove l'abilità conta in maniera importante. A poker si può vincere anche avendo la mano peggiore, mentre non si può vincere con un gratta e vinci perdente. Quindi, certo. Quindi il poker, l'abilità conta molto, e per questo qualcuno ne fa una professione. Quello che dice l'ascoltatore è giustissimo. Non è azzardo, non può essere considerato un gioco d'azzardo. No, sì, uno può vincere, ripeto, avendo la mano peggiore, perché è bravo, perché fa un bluff. Quindi l'abilità conta molto. E quei gesti scaramantici di cui parlavamo prima servono anche per intimorire l'avversario, un paio di occhiali neri o qualche abbigliamento un pochino forte. Ma quello che diceva è giusto, è che in Italia ci sono molte bische che sono illegali, cioè il poker viene praticamente. Al poker a soldi, a parte online, non si può fare in Italia. Cioè, non possiamo giocare a soldi in un locale sotto casa, questo è proibito. È come una bisca, e queste bische, caro Gianluca, tu pensa che in Italia è stato calcolato raccolgono 300 milioni di euro l'anno di gioco. Sì, ma per bisca non dobbiamo intendere il bar fumoso nel sottoscala. No. Intendo il salotto di un, ma ci sono... di un rispettare il professionista che ogni sera invita un po' di amici e giocano. Guarda, nel mio lavoro di inchiesta di giornalista su questo settore, ho visto delle bische che non hanno niente che invidiare a grandissimi casinò. Ho visto delle bische con cifre, con montepremi che possono fare invidia a Sanremo, a San Menzano, ma anche a Monte Carlo. Lo Stato dovrebbe regolarizzare, diceva bene questo ascoltatore, perché io devo andare per forza a uno dei quattro casinò, spendere soldi, tempo e tutto per andare a giocare così lontano? Se mi aprono posso giocare a poker, praticare la mia passione sotto casa, perché non farlo? Infatti lo Stato aveva previsto una gara che doveva essere indetta entro fine novembre, ma come succede in Italia la burocrazia in questi casi è lentissima, e chissà quando queste bische saranno legalizzate. Connu quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Amici, inauguriamo la web TV di Lotto parlando dei numeri ritardatari, ovvero la favola dei ritardatari. Abbiamo visto, ad esempio, con l'ultimo grande ritardatario, che gli italiani si giocavano anche 9-10 milioni di euro extra. Fabio Felici, ha senso ancora questo indotto televisivo e televisioni che spiegano i numeri, vendono i numeri, danno i numeri? In questi giorni si parla molto di Vanna Marchi, su questo è stata una delle sue attività più fiorenti, vendere oltre al sale benedetto e altri amuleti anche i numeri del lotto. Guarda, io sono uno come te, cioè io liberalizzerei tutto, nel senso che se uno fa uno studio sui numeri, dice questo numero tarda, ha vinto questi numeri, ma perché non dovrebbe essere pagato? Il problema è diverso, è se uno ti dice gioca questi numeri, ti garantisco che diventi milionario e vinci, allora lì andiamo sul reato di truffa. Potrebbe scrivere grosso, è un'ipotesi, come sulle sigarette. È un pronostico, il pronostico lo dice la parola stessa, non è nessuna certezza, allora è un altro discorso. In questo caso bisogna intervenire, purtroppo, di ciarlatani in televisione pieno. Ecco, diamo però questa idea, visto che sennò sembra che stiamo raccontando qualcosa che non esiste. Fammi velocemente uno spaccato del paese, regione per regione, gioco per gioco, per capire a cosa giocano in quella regione piuttosto che in quell'altra. Allora, guarda, la cosa, ovviamente, se parliamo di dati assoluti, Roma, Milano, Napoli, proprio per via della popolazione, sono sempre le città dove a livello generale il gioco è più praticato. Ma lo spaccato interessante viene dal pro capite, vuol dire in quanti ci sono 100 abitanti giocano 1000 euro e più che se ne giocassero 5 milioni a Roma. Cioè, quanto si spende per abitante? Quando parliamo di abitante, parliamo di bambino neonato, parliamo di ultracentenario. Bene, e lì vediamo veramente quanto la passione del gioco è legata a quel territorio. E quel dato che abbiamo detto prima, in Italia spenderemo 1170 euro per l'esattezza a testa a fine 2011. A Pavia siamo quasi al triplo, siamo quasi 3000 euro a spesa a testa, quindi vuol dire che ci sarà qualcuno a Pavia, leviamo i bambini, che spenderà 10-20 mila euro l'anno per giocare. C'è una forte passione a Pavia e sorprende il secondo posto di Como, Teramo, Rimini, cioè di città piccole dove però la passione del gioco è molto radicata. E in questo caso il sud non viene penalizzato, anche anzi il sud in alcuni giochi, per esempio le scommesse, Napoli è la numero uno sia a livello generale che pro capite. I gratta e vinci in Puglia, Bari e Foggia su tutte vanno fortissimo, ma sorprende per esempio Terni è la città italiana con la spesa pro capite più alta per i cavalli. I cavalli, uno dirà, che cosa c'entrano con Terni? A Terni niente proprio. Eppure, vi dati alla mano, Terni è la città italiana con la spesa pro capite più alta sull'Ippica, come Verbania, una piccola e piccolissima realtà del Piemonte, è la città italiana con la maggiore passione per il bingo, dove c'è una cifra spesa per il bingo sproporzionata a 180 euro a persona per il bingo a Verbania. Però questo dall'idea dello spaccato, si trovano realtà come Sondrio, come Brescia, che spendono molto per il lotto, che ovviamente fanno riflettere come il gioco sia equamente distribuito. Sarebbe interessante uno studio socio-antropologico per capire quali sono i motivi territoriali, i condizionamenti del luogo rispetto a quel tipo di gioco. Nessuno l'ha mai fatto, non ti risulta? No, non è stato fatto, ma no, sarebbe Pavia, molto interessante. Sto pensando a Pavia quale sarà, potrebbe essere la caratteristica per cui Pavia giocano tanto. Se ci fosse qualcuno pavese che può dirmi, mi farebbe piacere. Mi sarebbe incrociare questi dati con la ricerca che fa ogni anno il Sole 24 Ore sulle città dove si vive meglio. Chissà se le città dove si vive meglio sono anche quelle dove si gioca magari pro capite di più. Sentiamo Anna, buongiorno. Buongiorno. È allora, una giocatrice lei? No, però in famiglia mia hanno giocato anche molto e tanto, alcuni solo per passione, alcuni invece con, non dico una dipendenza, ma quasi. Lei ha osservato giocare i suoi familiari? Sì. Volevo dire che secondo me ci sono due differenze tra chi va al casinò e chi gioca al gratta e vinci, il super enalotto, eccetera. Siamo stati, credo, 60 anni senza avere i casinò da nessuna parte, senza avere la preoccupazione che non avessimo dei casinò nella città dove viviamo. E c'era il piacere del casino, poi qualcuno magari andava, diventava dipendente o viveva lì, giocava. C'era il bello, era anche il viaggio, era l'uscita dalla regola che comportava uno spostamento nel territorio. Certo, certo. Non mi è parso, almeno io ho 65 anni, non sono una ragazzina, che questo creasse un problema o ci fossero delle grandi insofferenze sociali o altro. Poi mi è parso che invece è venuto fuori che poteva essere una maniera di fare cassa per il governo, e sono venuti non solo il superenalotto con i premi sempre maggiori che escono ogni 5 minuti le stazioni, il gratta e vinci, e mi è sembrato che la gente, spinta anche molto dalla pubblicità, che poi diceva la frasettina un po' loffia, però gioca il giusto, pensasse che in questa maniera, come hanno detto dei sondaggi, se vinceva poteva sistemare i propri figli addirittura. E io ho visto gente magari al bar che giocava 300 euro di gratta e vinci o di super enalotto con pensioni di 1000 euro, gente modesta. Rientriamo nel campo della patologia. Fabio Felice, chiudiamo, abbiamo un minuto, rispetto a quello che dice questa nostra ascoltatrice. Sottende anche lei il fatto che in realtà c'è una sorta di solleticazione di uno spirito che andrebbe tenuto un po' calmerato perlomeno nel voler giocare. Ci si fa pubblicità a qualcosa che dà piacere, quindi si crea una dipendenza. Ma io mi rifaccio all'esperienza all'estero. Se si va in Inghilterra, pubblicità del genere sono nell'assoluta normalità, ed è un paese che sul gioco è arrivato molto prima di noi, quindi io non ci trovo nessun messaggio troppo. È chiaro, la pubblicità va controllata, è controllata, per carità, però dare a questo Stato l'idea di biscazziere, di voler per forza fare i soldi, è sbagliato. Lo Stato controlla, e meno male che c'è lo Stato, perché alcuni giocatori possono essere anche recuperati, sennò sarebbe, come dicevamo, in mano tutto al mercato nero, e i giocatori non solo si rovinerebbero, ma darebbero risorse a chi di risorse non ne deve avere. Soprattutto il gioco online, so che è molto diffuso, siamo dei grandi giocatori online, in realtà permette di ancora di più controllare le persone, perché esiste un limite. Esattamente, bisogna dare codice fiscale e il proprio documento, quindi si sa chi gioca, e chi se è minorenne non può giocare. 800 24 00 24, la trasmissione è finita, ci sentiamo la prossima settimana, grazie a Fabio Felice. Grazie a voi. on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.